ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko, introduzione di Lorenzo Pavolini. È l'aprile del 1906 quando Jack London, insieme alla moglie e un piccolo equipaggio, riesce finalmente a salpare dalla baia di San Francisco alla volta di quello che doveva essere un viaggio per mare che lo avrebbe dovuto portare a circumnavigare il globo in circa 7 anni. Tornerà invece dopo soli 1 anno e mezzo per via di una malattia della pelle che lo aveva colpito sotto i soli dei mari del sud, da lui molto, molto amati, considerava Honolulu la sua patria spirituale, come dargli torto. Jack London nel 1906 è all'apice della sua carriera, della sua fama, della sua vita e della sua letteratura. Mai in un autore si intrecciarono così strettamente gli aspetti del romanzo della vita e del romanzo scritto, letterario. Dà vita a Martin Eden, uno dei capolavori della letteratura americana del Novecento, proprio a bordo dello Snark, così si chiamava l'imbarcazione costruita non badando a spese, come racconta nella Crociera dello Snark, che pubblicherà poi nel 1913. È una barca, un catch di 45 piedi al galleggiamento, circa 13 metri e mezzo, ma oltre 21 metri misura con il suo bonpresso, le due grandi vele, l'ha costruito sperando che fosse un'imbarcazione totalmente stagna, robusta, l'ha sognata per tanti anni. Ricordiamo che Jack London, quando era ragazzino di 13-14 anni, già girava per la baia di San Francisco con una sua piccola imbarcazione, sognava da sempre di costruire questa barca, appunto, per la quale non badò a spese, salvo poi appunto avere con questa barca molte disavventure. Ma questo non gli impedisce, in quei pochi mesi appunto dell'estate del 1906 fino al febbraio del 1907, di scrivere le tante pagine del Martin Eden, procedendo al suo ruolino di marcia di oltre 1000 parole al giorno, che lo aveva tenuto sempre ben attivo e lo tenne sempre ben attivo durante i soli 16 anni di pubblicazioni e di letteratura. Appunto, Jack London morì a soli 41 anni nel 1916, non gli impedirono in questo breve tempo di realizzare oltre 50 romanzi, 1000 racconti, reportage, saggi. Ricordiamo che proprio poco prima, nel 1904, era stato sul fronte giapponese e aveva anche rifiutato le protezioni come giornalista, era finito per farsi arrestare. Lo stesso anno aveva pubblicato quello che fu il libro che gli diede dapprima la fama, Il richiamo della foresta. Come dicevo, Jack London nel 1906, quando salpa sullo Snark e scrive Martin Eden, è all'apice del suo successo, è reduce da una serie di conferenze sul socialismo che lo aveva portato in tutta l'America, anche in alcune università come Yale, dove lo venivano ad ascoltare oltre 6.000 persone, magari non tutte concordi assolutamente con quello che andava raccontando del suo anche sgangherato socialismo, ma sicuramente era un personaggio, una celebrità assoluta, sempre spinto dalla sua sete sì di successo, sì di denaro, ma anche di libertà e di ritorno a quella purezza che sentiva di avere perso. Martin Eden è in assoluto il romanzo in cui Jack London guarda alla sua parabola di scrittore con grande disillusione, disincanto, sincerità e durezza, raccontando proprio come dopo essere riuscito a conquistare appunto successo, fama, anche letteraria, denaro, tutto sommato la vita gli sembrasse abbastanza vuota, sembrasse a lui, sembrasse a Martin Eden. È il solito problema di raccontare un romanzo nel quale tutti hanno sempre riconosciuto un personaggio, Martin Eden, che era un po' un alter ego dell'autore, nonostante lo stesso Jack London si fosse naturalmente adoperato in tutti i modi per dire che non era così. Martin Eden non era assolutamente la sua autobiografia e neppure una parabola sulla terribile fine che attende chi non crede in Dio. Questo ribatteva al reverendo Charles Brown, che dedicava una terribile predica contro Martin Eden, appunto, nel quale identificava il destino che attende chi non crede in Dio. In realtà, ribatte Jack London, io ho scritto questo libro come atto d'accusa contro l'affascinante lotta della bestia selvaggia chiamata individualismo. Martin Eden era un vero individualista estremo, scrive, di tipo nicciano. Nei romanzi di Jack London è sempre presente il dibattito anche culturale del suo tempo. Jack London scrisse questi libri all'inizio del secolo e aveva già come modelli letterari Melville, Conrad, i grandi scrittori di mare, e il fatto che noi riportiamo sempre la figura di Jack London a questo confronto con l'estremo nord, l'uomo di fronte alla natura, il darwinismo. Basti ricordare che quando da ragazzo Jack London partì come appunto cercatore d'oro, si portava dietro proprio i libri di Darwin, e che Jack London in realtà aveva una fortissima sete intellettuale, esattamente come Martin Eden, che vediamo proprio in queste prime pagine nella lettura di Ad alta voce, che tra poco ascolterete nella voce di Massimo Popolizio. Martin Eden, il rozzo marinaio che si muove a fatica nel salotto di Ruth Morse, la prima cosa che fa è avere sete di libri, e subito comincerà a leggere un libro di Swinburne, un poeta che tornerà come un cerchio a chiudere il drammatico epilogo di Martin Eden. L'intenzione di Jack London era di mettere in campo però qualcuno che fosse sì molto simile a lui, però con una differenza principale. Come dice appunto nella lettera il reverendo Brown, dice: lasciatemi sottolineare la debolezza congenita di questo paragone. Martin Eden si è ucciso, io sono ancora vivo. Buon ascolto. Uno dei due fece girare più volte la chiave nella serratura e poi entrò, seguito da un ragazzo che si tolse goffamente il berretto. Indossava abiti rozzi, dal forte odore di salsedine, ed era palesemente fuori posto nell'ampio atrio in cui si era ritrovato. Non sapeva cosa fare del berretto e stava cercando di infilarselo in una delle tasche della giacca, quando l'altro glielo prese. Il gesto fu calmo e naturale, e il ragazzo goffo lo apprezzò. Lui mi capisce, pensò, mi darà una mano. Il ragazzo camminava alle calcagna dell'altro, oscillando le spalle, mentre le sue gambe si allargavano involontariamente, come se il pavimento si sollevasse e si abbassasse, seguendo il gonfiarsi e riaffondare delle onde del mare. Le stanze ampie sembravano troppo strette per il suo passo ondeggiante, e lui era terrorizzato all'idea di urtare con le sue spalle larghe gli stipiti delle porte o di spazzar via il bric-a-brac dalla bassa mensola del camino. Si sentiva circondato dagli oggetti e cercava in ogni modo di rimpicciolirsi, moltiplicando nella propria mente pericoli che in realtà non esistevano. Tra il piano a coda e il tavolo al centro, coperto da alte pile di libri, c'era spazio sufficiente per far passare mezza dozzina di uomini, uno a fianco all'altro. Eppure lui ci si avventurò con apprensione. Le sue braccia muscolose pendevano inerti. Non sapeva cosa farsene di quelle braccia e di quelle mani, e quando ai suoi occhi eccitati sembrò che un braccio potesse sfiorare i libri sul tavolo, scartò via come un cavallo spaventato, mancando di poco lo sgabello del pianoforte. Mentre osservava l'altro camminare con disinvoltura davanti a lui, si rese conto per la prima volta che la sua camminata era diversa da quella degli altri, e per un attimo si vergognò di camminare in un modo così sgraziato Immediatamente la fronte gli si imperlò di minuscole gocce di sudore. Allora si fermò per asciugarsi la faccia abbronzata con un fazzoletto. «Fermo un attimo, Arthur. Tesoruccio mio», disse cercando di essere spiritoso per nascondere l'ansia. «Tutto in una volta è davvero troppo per il sottoscritto. Il sinceramente vostro. Oh, dammi il tempo di ripigliare la rotta, eh. Sai che non volevo mica venire e scommetto che nemmeno i tuoi muoiono dalla voglia di vedermi». «Oh, d'accordo», fu la risposta rassicurante. «Non devi avere paura di noi. Siamo persone alla mano. Ah, c'è una lettera per me». L'altro tornò verso il tavolo e aprì la busta e iniziò a leggere, dando a quel forestiero la possibilità di riprendersi. E il forestiero capì e apprezzò. Possedeva il dono della comprensione, della simpatia. Sotto quell'aspetto preoccupato, la tenerezza continuava il suo processo, senza interruzioni. Si asciugò la fronte e si guardò intorno, di nuovo padrone di sé, anche se nel suo sguardo c'era una luce simile a quella che appare negli occhi degli animali selvatici quando si sentono in trappola. Era circondato dall'ignoto, preoccupato di ciò che poteva accadere, ignaro di ciò che avrebbe dovuto fare, conscio di camminare e di comportarsi goffamente, spaventato all'idea che tutte le sue qualità e capacità si fossero ugualmente indebolite. Era acutamente sensibile, disperatamente imbarazzato. Lo sguardo divertito che l'altro gli indirizzò al di sopra della lettera lo colpì come una pugnalata. Ma pur avendo notato quello sguardo, non lo fece capire, perché tra le cose che aveva imparato c'era la disciplina, e per di più quella pugnalata lo aveva colpito nell'orgoglio. Si rimproverò per essere venuto, ma decise che poiché adesso era lì, vi sarebbe rimasto fino alla fine, qualsiasi cosa fosse accaduta. I suoi lineamenti si indurirono e nei suoi occhi apparve un'espressione combattiva. Si guardò intorno con più tranquillità e, grazie all'acuto spirito d'osservazione di cui era dotato, registrò nella sua mente ogni dettaglio del grazioso salone. I suoi occhi erano spalancati. Nulla sfuggiva nel loro campo visivo, mentre assorbivano la bellezza di ciò che vedevano. L'espressione combattiva svaniva e veniva sostituita da una luce calda. Era sensibile alla bellezza e in quella sala vi erano molte cose capaci di risvegliare la sua sensibilità. Tell that to silver rain. Somebody's excited to be gone away. Spring like December on the corner now. Let the memory fade and I'll forget. Un dipinto ad olio catturò l'attenzione del ragazzo. Un'onda potente si infrangeva tonando sopra uno scoglio. Basse nuvole temporalesche coprivano il cielo e, oltre la risacca, una goletta di bolina stretta si inclinava fino a mostrare ogni particolare del ponte. Sbandava tra le onde mentre il sole tramontava in un cielo tempestoso. Era bello e ne fu attratto irresistibilmente. dimenticò di camminare in modo goffo e si avvicinò di più al dipinto, molto di più. Ma la bellezza scomparve dalla tela mentre lui la fissava esterrefatto e fissò quella che ora gli sembrava solo una tavola malamente imbrattata e poi arretrò. Immediatamente la bellezza ricomparve sulla tela. «È un quadro truccato», pensò, liquidando il dipinto, anche se nella nebbia delle infinite impressioni che lo sollecitavano in quel momento, trovò il tempo di sentire una fitta di indignazione di fronte a una bellezza simile sacrificata per fare uno scherzo. Non conosceva la pittura. Era cresciuto con cromo e litografie, sempre ben definite e chiare, sia da vicino sia da lontano. In realtà aveva già visto dei dipinti ad olio, ma solo nelle vetrine dei negozi, dove il vetro aveva impedito ai suoi occhi avidi di avvicinarsi troppo. Si guardò intorno, vide che l'amico stava ancora leggendo la lettera e poi notò i libri sul tavolo. Immediatamente nei suoi occhi apparve un desiderio febbrile, simile a quello che si accende negli occhi di un uomo affamato alla vista del cibo. D'impulso, con una falcata accompagnata dal dondolio delle spalle, verso destra e verso sinistra, raggiunse il tavolo e iniziò a toccare i libri con amore. Scorse i titoli e i nomi degli autori, ne lesse alcune righe, accarezzò i volumi con gli occhi e le mani, riconobbe un libro che aveva letto. Tutti gli altri erano libri sconosciuti, di autori sconosciuti. Quando si imbatté in un volume di Swinburne, cominciò a leggerlo attentamente e mentre il viso gli si illuminava, si dimenticò di dove fosse. Chiuse due volte il libro, tenendo il segno con l'indice per guardare il nome dell'autore. Swinburne. Si sarebbe ricordato di quel nome. Quel tipo aveva buoni occhi e sapeva vedere i colori e i lampi di luce. Ma chi era Swinburne? Era morto da 100 anni o anche di più, come quasi tutti i poeti, o era ancora vivo e scriveva ancora? Lesse i titoli sul frontespizio. Sì, aveva scritto altri libri. Bene, domani mattina, per prima cosa, sarebbe andato alla biblioteca pubblica e avrebbe cercato di mettere le mani su qualche cosa di Swinburne. Riprese la lettura e vi si immerse fino al punto di non accorgersi che una giovane donna era entrata nella stanza. Se ne rese conto soltanto quando sentì la voce di Arthur dire «Ruth!» «Questo è il signor Eden!» Chiuse il libro, lasciandovi dentro l'indice, colpito, prima ancora di voltarsi, da una nuova emozione. E quella emozione era causata non dalla presenza della ragazza, ma dalla frase pronunciata dal fratello. Sotto quel corpo muscoloso si nascondeva in realtà una sensibilità fremente. Era sufficiente il più leggero impatto del mondo sulla sua coscienza perché pensieri, simpatie ed emozioni iniziassero a saltare e giocare come le lingue di una fiamma. Straordinariamente ricettivo e reattivo, possedeva una immaginazione sempre tesa che lavorava ininterrottamente per stabilire relazioni di somiglianza e differenza. Era stato colpito da quel signor Eden. Lui, che in tutta la vita era sempre stato chiamato Eden, o Martin Eden, o solo Martin, e signore. Ma ne ho fatta di strada, commentò tra sé e sé. In quello stesso istante, la sua mente sembrò trasformarsi in un'ampia camera oscura dove vide, disposte con ordine intorno alla sua coscienza, infinite immagini della sua vita. Sale macchine e castelli di prua, accampamenti e spiagge, prigioni e bettole di ubriachi, ospedali per i poveri e strade dei bassifondi. E il filo dell'associazione era il modo in cui era stato chiamato in tutti quei luoghi. Si girò e vide la ragazza. E a quella vista, la fantasmagoria di immagini nel suo cervello svanì. Era una pallida, evanescente creatura, con grandi spirituali occhi blu e una massa di capelli dorati. Non vide com'era vestita, sapeva solo che il suo abito era meraviglioso come lei. La paragonò a un fiore color oro pallido, sostenuto da un esile stelo. No, lei era uno spirito, una divinità, una dea. Una bellezza così spirituale non può appartenere alla terra. O forse i libri avevano ragione, c'erano molte donne come lei nei sentieri superiori della vita. Quel tipo, Swinburne, avrebbe certamente potuto cantarla. Forse aveva in mente una come lei quando aveva descritto quella ragazza, Isotta, nel libro sul tavolo. Quella pletora di visioni e sentimenti e pensieri durò solo un istante, senza provocare interruzioni nella realtà in cui lui si muoveva. La vide tendergli la mano e guardarlo dritto negli occhi mentre gliela stringeva con fermezza, come un uomo. Le donne che aveva conosciuto non stringevano la mano in quel modo, anzi, la maggior parte di loro non la stringeva affatto. Un'ondata di associazioni, visioni, dei diversi modi nei quali aveva conosciuto altre donne, irruppe nella sua mente, minacciando di sommergerla. Ma lui se ne liberò e la guardò. Non aveva mai visto una donna simile. Le donne che aveva conosciuto. Subito, accanto a lei, a destra e a sinistra, si disposero le donne che Martin aveva incontrato. Per un eterno secondo si ritrovò nel mezzo di una galleria di ritratti dove Ruth occupava il posto centrale, mentre intorno a lei erano allineate molte donne, tutte destinate a essere pesate e misurate da un rapido sguardo. Lei, l'unità di peso e di misura. Vide le facce deboli e malate delle ragazze delle fabbriche e le maliziose e sguaiate ragazze dei quartieri a sud di Market Street. C'erano le donne che frequentavano gli accampamenti dei mandriani e le donne dalla pelle scura del vecchio Messico, che fumavano sigarette, e poi fu la volta delle giapponesi, bambole che camminavano affettatamente su piccoli zoccoli di legno, e poi delle eurasiatiche, dai tratti deboli segnate dalla degenerazione della razza, e infine apparvero le formose donne dalla pelle bruna delle isole dei mari del sud, incoronate di fiori. Tutte furono cancellate da un incubo grottesco e terribile, generato da sordidi ricordi, le creature striscianti dei marciapiedi di Whitechapel, vecchie streghe dei bordelli, gonfie di gin, e tutto il vasto seguito dell'inferno di arpie, volgari e luride, che predano i marinai sotto forma di femmine mostruose, avanzi dei porti, feccia e melma della più infima umanità. «Non vuole sedersi, signor Eden?» stava dicendo la ragazza. «Desideravo incontrarla fin da quando Arthur ci ha raccontato ciò che lei ha fatto. È stato coraggioso?» Lui si schermì, agitando una mano e balbettando che era una cosa da nulla quella che aveva fatto e che chiunque l'avrebbe fatto al suo posto. Lei notò che quella mano era coperta di tagli recenti, non ancora del tutto guariti, e lanciando uno sguardo all'altra mano che pendeva inerte, vide che era nelle stesse condizioni. Con un'occhiata rapida e critica notò anche una cicatrice sulla guancia, un'altra che si intravedeva sulla fronte sotto i capelli e una terza che correva lungo il collo per poi sparire sotto il colletto inamidato. Represse un sorriso alla vista del segno rosso provocato dallo sfregamento del colletto contro il collo abbronzato. Evidentemente non era abituato ai colletti rigidi, pensò, mentre i suoi occhi di donna notavano anche il taglio dozzinale e inelegante degli abiti indossati dal ragazzo, la giacca arricciata sulle spalle e le grinze sulle maniche che rivelavano la presenza di bicipiti muscolosi. Martin, mentre agitava la mano e balbettava di non aver fatto nulla di eccezionale, cercava di obbedire all'invito di Ruth e di mettersi a sedere. Trovò il tempo di ammirare la naturalezza con la quale lei si sedeva, poi rollò verso una sedia di fronte alla sua, sopraffatto dalla consapevolezza di quanto dovesse apparire goffo. Era un'esperienza nuova per lui. Per tutta la vita, fino a quel momento, non era mai stato consapevole di essere elegante oppure goffo. Simili riflessioni su se stesso non gli erano mai passate per la testa. Si sedette con circospezione sul bordo della sedia, imbarazzato dalle sue mani, perché ovunque le mettesse gli sembravano di troppo. Arthur stava uscendo dal salotto e Martin Eden lo seguì con uno sguardo carico di invidia. Si sentiva perso, solo in quella stanza, con un pallido spirito di donna. Non c'era un cameriere al quale ordinare qualcosa da bere, nessun garzone da mandare a prendere della birra per dare inizio ai piaceri dell'amicizia attraverso quell'elementare collante sociale. Brutta cicatrice sul collo, signor Eden, stava dicendo la ragazza. E come se l'è fatta? Sarà accaduto certamente durante una terribile avventura. Un messicano con un coltello, signorina, rispose, inumidendosi le labbra inaridite e schiarendosi la voce. È stata solo una scazzottata. Dopo che gli ho strappato il coltello, quello cerca di staccarmi il naso con un morso. La sua descrizione era stata sommaria, ma nei suoi occhi c'era un'immagine piena di quella notte calda e stellata a Salina Cruz. La bianca striscia di sabbia, nel porto le luci dei piroscafi che trasportavano lo zucchero, in lontananza le voci dei marinai ubriachi, gli stivatori intenti nel lavoro, la folle ira sul viso del messicano, il luccichio degli occhi animaleschi nella luce delle stelle, la fitta dell'acciaio sul collo e il fiotto di sangue, la folla, le grida, i due corpi, il suo e quello del messicano, intrecciati insieme che rotolavano ancora e ancora sollevando la sabbia e da qualche parte, molto lontano, il dolce tintinnio delle corde di una chitarra. Così ricordava quella sera e, emozionato alla visione, si chiese se quell'uomo, quello che aveva dipinto la goletta appesa al muro, sarebbe stato capace di dipingerla. La spiaggia bianca, le stelle, le luci dei piroscafi carichi di zucchero sarebbero state bellissime, pensò. E poi al centro, sulla sabbia, il gruppo scuro degli spettatori intorno ai due combattenti. Decise che anche il coltello avrebbe avuto un posto nel dipinto, anzi, sarebbe stato ben visibile alla luce delle stelle, come una specie di bagliore. Ma nulla di tutto ciò trapelò dalle sue parole. «Quello ha cercato di staccarmi il naso con un morso», concluse. «Oh!» esclamò la ragazza, con una voce debole e lontana, e lui lesse su quel volto sensibile che le sue parole l'avevano turbata. Anche Martin allora si turbò e le sue guance, per l'imbarazzo, si ricoprirono di un rossore appena visibile sotto la bronzatura, anche se bruciavano come se fossero state esposte dal calore che esce dalle caldaie nella sala macchine. Cose così sordide come risse e accoltellamenti non erano evidentemente un soggetto adatto per fare conversazione con una signora. I personaggi dei libri, quelli che percorrevano gli stessi sentieri della vita di lei, non parlavano mai di queste cose. Forse non sapevano nemmeno che esistessero. Ci fu una breve pausa nella conversazione che stavano cercando di imbastire. Poi lei, cautamente, gli chiese qualcosa della cicatrice che aveva sulla guancia. Prima ancora che finisse di formulare la domanda, Martin comprese che lei si stava sforzando di parlare il linguaggio di lui. Decise di lasciar perdere argomenti simili e di parlare lui, invece, il linguaggio di Ruth. «Un incidente», disse toccandosi la guancia con la mano. Una notte di bonaccia, ma con le onde ancora lunghe, l'ammantiglio del boma si è strappato e poi se ne è saltato anche il paranco. Sferzava tutto il ponte come un serpente ed era d'acciaio. Il turno di guardia cercavano di acchiapparlo. Io mi lancio a testa bassa e faccio la fine di una mosca. «Oh!» esclamò la ragazza, questa volta con comprensione, anche se quelle parole erano arabo per lei, che tra sé si stava domandando cosa fosse un ammantiglio e che cosa potesse significare fare la fine di una mosca. «Quell'uomo, Swinburne?» iniziò lui cercando di mettere in azione il suo piano e però sbagliando a pronunciare il nome del poeta. «Chi?» «Swinburne», ripeté, sbagliando di nuovo. «Il poeta?» «Swinburne», lei lo corresse. «Ecco, proprio lui», balbettò, le guance di nuovo bollenti. «Da quanto tempo è morto?» «Perché? Non ho mai saputo che fosse morto», lo guardò con curiosità. «Dove lo ha conosciuto?» «Mai visto in vita mia», fu la risposta. «Ma ho letto qualcuna delle sue poesie in quel libro, quello sul tavolo, proprio prima che lei entrava. Le piacciono le sue poesie?» E così lei iniziò a parlare con facilità e agilità dell'argomento che le era stato suggerito. Martin si sentì meglio. Si sedette un po' più comodamente, continuando però a tenersi con forza i braccioli, come se la sedia potesse sfuggirgli e sbalzarlo sul pavimento. Era riuscito a farle parlare il linguaggio che gli apparteneva e ora, mentre lei continuava senza interrompersi, si sforzava di seguirla, meravigliandosi per tutta la conoscenza riposta in quella testa graziosa, dissetandosi della pallida bellezza del suo viso. E riuscì a seguirla, anche se era ostacolato dalle parole inusuali che lei lasciava uscire con scioltezza dalle labbra, da osservazioni critiche e da trame di pensiero a lui estranee. Ciononostante, le parole di Ruth stimolarono la sua mente e la fecero fremere. Massimo Popolizio ha letto Martin Eden di Jack London. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it.